I social media, i social network, sono diventati un nuovo mezzo di comunicazione e sono nate decine di società specializzate nel loro studio, nella progettazione di una strategia per aziende o persone, per capire come muoversi all'interno dei social network, società che controllano la reputazione online di persone e aziende. Ne parliamo in questa puntata con Matteo Flora, fondatore di The Fool, per capire come i social network sono diventati la nuova piazza, ad esempio per le proteste, per i grandi dibattiti, il nuovo spazio di comunicazione per personaggi e aziende. In questa puntata di 2024 parleremo anche di Wikipedia, perché è stato un grande successo la recente campagna per raccogliere fondi per sostenere Wikipedia. Negli Stati Uniti sono stati raccolti 20 milioni di dollari. Quanti arrivano dall'Italia e soprattutto che cosa ne verrà fatto di questa montagna di denaro che è stata raccolta da Wikipedia, uno dei siti più visitati al mondo? Vi aspettiamo in questa puntata. Un saluto e un augurio di un buon ascolto da Enrico Pagliarini.